Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. 19 e 6 minuti in diretta qui su Radio Stonata, la radio che più stona più suona. Questo è il primo brano di questa sera. Siamo in diretta, però voglio dimostrarvi che siamo in diretta. Quindi salutiamo una nuova ascoltatrice di Radio Stonata che si chiama Liliana. Ciao Liliana. Luca, lo vuoi salutare pure tu? Luca. Appassionati del viaggio lo riconoscete subito, soprattutto perché sulla pagina Facebook della radio era pubblicizzato alla grande la presenza di Luca questa sera qui sulla radio che più suona, ma ci siamo lasciati, Luca, se non ricordo male erano fine maggio, stavi partendo, no? Sì, stavo organizzando il programma marino e avevo deciso la prossima destinazione che non mi ricordo se l'avevo detto, ma era la Croazia. Sì, infatti, no, sai perché? Perché proprio avevi detto che ci andavi in Croazia. Ma questa Croazia, esatto. Che bella è! È stupenda, veramente bella. Dico, allora, partiamo da questo punto della mia vita, perché è più bello che non è stato in Canada. Però la Croazia è stata una nazione che mi ha sorpreso, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Sono state senza dubbio i parchi e anche il mare e le sue spiagge. È veramente una nazione che ha molto da offrire sotto questo punto di vista. Ma mi racconti un po' di questo viaggio, perché poi cioè, hai mescolato comunque bellissime città a delle viste spettacolari di cascate. Sono delle cascate queste? Sì, esatto. Questo è il parco del Kerka che abbiamo visitato, credo, secondo giorno, il terzo giorno del nostro tour croato. Abbiamo fatto un on the road, abbiamo fatto la prima notte a Rijeka, dove abbiamo fermati solo una notte brevemente per interrompere un viaggio che sarebbe stato di 5 ore altrimenti. E siamo arrivati poi a Zara, dove siamo rimasti 5 notti, e da lì abbiamo usato la città un po' come base per muoverci un po' nei dintorni della zona. Poi siamo andati 2 giorni ai laghi di Plitvice e siamo andati 3 giorni allora abbiamo visitato la città. Nel primo posto ho parlato appunto del parco del Kerka, che era stata senza dubbio la cosa più bella di tutto il viaggio. Un parco meravigliose, dove abbiamo potuto anche fare il bagno. E non so se i ragazzi in linea che ci stanno ascoltando di leggerlo e anche soprattutto di guardarmi le foto, perché veramente è un parco che è piaciuto tantissimo, soprattutto a me. Immagino, ma sappiamo che di solito ti organizzi con la famiglia per questo viaggio, l'hai fatto anche stavolta? Sì, assolutamente, è impossibile che mi stacchi da loro, perché si aggrappano praticamente, quindi non riuscirei ancora a fare un viaggio da solo, poi comunque sai, con due bambini piccoli dove li metto. Comunque alla fine sì, abbiamo organizzato un on the road con i bambini e devo dire che anche qua la Croazia si è arrivata all'altezza, perché comunque le strutture, noi abbiamo girato per appartamenti, comunque anche al di fuori degli appartamenti sono preparati per accogliere i bambini, e sono delle destinazioni, scusami, abbiamo visto dei posti, dei luoghi, delle destinazioni che comunque sono anche a misura di bambini, insomma, quindi non c'è stato veramente alcun problema. Ah, buono, ottimo allora. Luca, sai che facciamo? Ci fermiamo giusto un attimo, piccola pausa pubblicitaria e ritorniamo in diretta qui su Radio Stonata, dopo anche averci ascoltato J-Ax con Tutto tua madre qui sulla radio che più sta. J-Ax qui su Radio Stonata con Tutto tua madre in diretta appunto sulla radio che più stona più suona. Siamo sempre in compagnia dei nostri amici di nonsoloturisti.it, siamo alla terza puntata e oggi ritroviamo il nostro Luca Peristinotto. Ve l'ho presentato in apertura di trasmissione, ma abbiamo perfezionato il collegamento e quindi ora lo sentirete ancora meglio. Ciao Luca, buonasera, ben ritrovato. Ciao a tutti. Ecco, allora Luca, stavamo parlando appunto di questo viaggio che hai fatto in Croazia Io subito ti ho fatto la domanda, perché se voi andate su nonsoloturisti.it, cercate il link che sarà postato tra pochissimo anche sulla pagina di Radio Sonata, troverete subito questa immagine maestosa di queste splendide cascate e poi di questo bellissimo parco che ne fanno da cornice. Però io vorrei Luca che ce ne parlasti tu un po'. Sì, esatto. Allora, questo è il parco del Krka, è uno dei parchi nazionali più famosi della Croazia, l'altro parco di Plitvice. Questo è il parco che mi è piaciuto di più perché comunque è abbastanza, diciamo che la parte percorribile è abbastanza piccola. Il parco comunque è circa di 11.000 ettari, quindi è molto più vasto, e normalmente ci si dedica alla zona delle cascate e si parte, diciamo, dall'entrata, si scende con l'autobus, poi si arriva al parcheggio, si scende e si inizia a camminare attraverso le passerelle. E la parte più bella e più scenica di tutto il parco è senza dubbio la cascata Stradinsky, conosciuta anche come Stradinsky Book. Praticamente è quella dove, guardate le foto, dove la gente ci fa il bagno, e è veramente una cosa impressionante, sembra quasi un dipinto a volte. E niente, si arriva là, si può fare il bagno, l'importante è stare abbastanza attenti perché il fondo fondale è roccioso, è anche molto basso, quindi sono vietati tutti. Ma la cosa bella è proprio vedere tutta la serie di cascate che scende dall'alto e si tuffano poi nella piscina antistante. Veramente una cosa, un capolavoro della natura, per te. Ma Luca, sai che ho una domanda un po' particolare, e tu eri terrorizzato dalle mie domande particolari. Sì. Cioè, nello scrivere l'articolo, naturalmente uno non può scrivere proprio tutto perché qualcosa, sai, mentre lo stai scrivendo ti sfugge, anche se lo rileggi milioni di volte. C'è una cosa che non troviamo nell'articolo, però che tu, cioè, hai detto: cavolo, io la volevo scrivere sta cosa ma non ce l'ho fatta, me lo sono dimenticato? Oppure una foto che non lo so, ti è capitato, c'è o non c'è, oppure ho fatto una domanda stupida delle mie? No, tranquillo, sai cosa? Ti dico la verità, avrei voluto parlare più della parte di cui non si visita di questo parco qua. Purtroppo però per questioni di tempo non siamo riusciti a visitare. C'è una parte del parco, le fortezze, c'è un monastero anche. Purtroppo questa è una parte che pochi conoscono, perché sono delle visite guidate, e sono la parte della comunità si trova in un lato e il monastero si trova nell'altro, quindi purtroppo è una cosa che non molti visitano. Ecco, io avrei voluto visitare queste parti qua e poterne parlare, purtroppo ho dovuto andare un attimo a immaginazione, diciamo, perché purtroppo non è una cosa che si visita molto. L'unica cosa che ho potuto dire è stato il fatto che si possono visitare in battello, ci vogliono circa 2 ore e mezza. Ecco, questo sì, avrei voluto parlarne di più, ma purtroppo non mi è stato possibile, perché poi siamo andati a vedere anche la città di Šibenik, che è là vicino. Com'è questa città? Raccontacelo un po'. Ma allora, Šibenik è secondo me la città più bella di tutto il nostro viaggio, anche più di Zagabria. Šibenik è una città storica che sente molto l'influenza della città di Venezia, perché in passato è rimasta sotto il dominio veneziano, e ha un porto bellissimo dove noi ci siamo anche fermati a mangiare, tra parentesi non abbiamo mangiato bene, ma c'è comunque un porto bellissimo come? Tra parentesi, esatto. Però comunque si ha una bellissima vista molto rilassante, con il tramonto sul mare e dietro le montagne, perché Šibenik comunque è su una baia interna. La bellezza di Šibenik sta soprattutto nel centro storico, che è tutto un saliscendi, e lo potete vedere anche dalle foto, è tutto un saliscendi ed è un borgo storico, quindi è veramente un gioiellino sulla costa. Quando si arriva a Šibenik però la prima impressione non è proprio il top, perché tu arrivi e hai questi palazzoni anonimi, brutti, e certe volte che quindi dici: perché sono venuto qua? Ma una volta che trovi il parcheggio e poi vai a esplorare il centro storico, viene ripagato alla grande. Ok. Come al solito tu nei tuoi articoli ci metti la questione economica. Come è andata questa volta? Allora, diciamo che la questione economica pensavo fosse più economica. invece non è più così, non sono più i prezzi di 10-15 anni fa dove facevi proprio le ferie veramente low cost. Diciamo che la Croazia è una meta economica se si va soprattutto fuori stagione, perché comunque il tempo, noi siamo andati a settembre, il tempo comunque è molto buono fino al, noi siamo arrivati fino all'11 di settembre, no scusa, 13 di settembre, anche oltre il tempo e le temperature si mantengono buone. I costi invece, fai conto che siamo più o meno su un terzo in meno rispetto a quello che si spende qui. Noi mangiavamo fuori alla sera in 4, con bevande incluse circa un 35-40 euro, mentre qui da noi si spende un 50-60 euro circa. Anche il costo dei parchi, sì, sono prezzi abbastanza abbordabili, diciamo. Anche il costo dei parchi è abbastanza abbordabile. Dico che tipo per entrare al Krka in 4 abbiamo speso 40 euro. Un parco da noi, io purtroppo non ho avuto finora l'opportunità di visitare un parco che sia a pagamento, ma credo che se fossero da noi il costo sarebbe molto più elevato. Luca, sai cosa? Siamo arrivati in fondo allo spazio, perché questa sera siamo veramente in tantissimi in diretta con me, quindi dobbiamo ritagliare anche dello spazio per gli altri, però so che c'è una nostra fan lì vicino a te che vuole fare dei saluti, vero? Aspetta un attimo, è ritornata, all'inizio non c'era, all'inizio della conversazione non c'era, ha bussato alla porta ed è arrivata mia figlia Rachele che voleva fare il saluto, dammi un secondo. Ciao Rachele! Ciao! Come va? Bene! Ti piace parlare in radio? Sì! A chi vuoi salutare, Rachele? Tutti i miei parenti! Ma tutti, sì! Sono tanti! Tutti! Grazie, Rachele! Ciao! Ciao! Oh, è un momento di emozione pazzesca questa qua che ci fai vivere ogni volta, Luca! Sì, ormai non riesco più a liberarmene. Dall'altra volta che hai iniziato a parlare, questa volta l'ha istruita sua mamma, che l'altra volta ha salutato solo la nonna, questa volta ha dovuto salutare tutti i parenti. Luca, io ti ringrazio e spero di risentirti presto di nuovo qui su Radio Stonata con un altro tuo viaggio. Sì, certo, se non sarà un altro viaggio, che vediamo se riusciamo il prossimo mese, altrimenti sarà gennaio, comunque parlerò, avrò molto da parlare anche della Croazia, nuovamente ci saranno delle cose da parlare, e quindi sicuramente ci risentiremo. Ok, grazie Luca, ciao e alla prossima. Okay. Ciao a te Beppe, grazie ancora e ciao a tutti gli amici in linea. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it